ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Buongiorno, mi piacerebbe capire qual è la famosa strategia di Maldini, se non quella di strapagare un quarantenne alla disperata ricerca di un po' di personalità, perché sennò gli altri se la fanno sotto. Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Possiamo anche dare un punto sul mercato del Napoli, come procedono le cose? È soddisfatto? C'è qualche novità? Dovresti chiederlo a Conte, ma non Conte del mister, Conte del governo. Ragazzi, ci siamo, 14:04 minuti, carissimo Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Ci siamo, muniti di mascherina, gel sanificante d'ordinanza, qui in regia davanti a me Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli, muniti di mascherina, noi, carissimo Pier, perché adesso parliamo della grande storia di oggi, che insomma da ieri sera tardi e poi da questa mattina sta agitando e irritando anche buona parte del mondo del calcio italiano, ovvero la positività del presidente del Napoli De Laurentiis al Covid. De Laurentiis presente, così come tutti i presidenti e dirigenti del calcio italiano, ieri in quell'assemblea di Lega di cui abbiamo parlato a lungo, cruciale per il futuro, per i destini del calcio italiano, e che adesso si trasforma per tutti in una sorta di caccia a chi è stato infettato, perché si è scoperto che il presidente del Napoli De Laurentiis era positivo al Covid. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, siamo qui fino alle 15, vi invito a prenotarvi già adesso. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Mi dai il tuo radio tweet? Sì, radio tweet è legato alla giornata di ieri, ma sulla parte, diciamo, sanitaria è più finanziaria, e cioè questa svolta che comunque sembra evidente, anche se ancora qualche margine di retromarcia c'è sui fondi, e secondo me è una decisione che ci sta, per due motivi: primo, di cassa, e il secondo, di managerialità, di tutto il calcio italiano, che a detta di tutti, non soltanto dei diretti interessati ma anche di tutti gli osservatori, ha bisogno di crescere da questo punto di vista. È chiaro che poi quando c'è qualcuno che si compra un pezzo di una cosa che ha un così grande interesse pubblico come il calcio italiano, qualche elemento ovviamente di attenzione ci deve essere, perché bisogna evitare conflitti di interesse, bisogna evitare che insomma ci possano essere dei poteri troppo forti. Però io credo che il bicchiere sia mezzo pieno, credo che sia una svolta fondamentale. Insomma, la Premier League ha cambiato completamente molto da ormai quasi 30 anni, da quando si è data un brand e un'organizzazione di un certo tipo, e quella è la strada. E quindi questo è quello che è successo ieri fino al momento in cui è finita l'assemblea, però il meglio doveva ancora venire. Il meglio o il peggio? Saluto Franco Vanni di Repubblica, ciao Franco. Ciao, come va? Allora, noi adesso cerchiamo di mettere insieme le diverse versioni dei fatti. Ci racconti come hai ricostruito tu su Repubblica la giornata di ieri? Partiamo da ieri sera. Ieri, finita l'assemblea di Lega, dopo che tutti i partecipanti sono usciti dall'hotel milanese in cui la riunione si era tenuta, qualcuno con mascherina, qualcuno no, qualcuno stando zitto, qualcuno parlando mobilmente con i giornalisti, verso le 8 di sera arriva alla chetichella e alla spicciolata l'informazione ai partecipanti che c'era un positivo. Com'è come non è, salta fuori il nome di De Laurentiis, che già era stato rimbrottato durante l'assemblea perché aveva detto di stare poco bene di pancia, e quando gli si era chiesto come mai di questo suo fastidio, aveva detto: ah, guarda, lascia stare, perché ieri ho fatto una mangiata di ostriche. Col tempo poi, appunto, verso le 8 di sera è venuto fuori che le ostriche c'entravano poco o niente. Perché? Perché a De Laurentiis è arrivato il risultato di un tampone che aveva fatto nella mattina, da cui il risultato che era positivo al coronavirus. Allora, qua c'è il discorso dei sintomi, che secondo me è cruciale nel racconto di questa vicenda, nel senso che ieri sera siamo un po' arrabbiati, togliamo anche un po', e sostituiamo arrabbiati con incazzati, e rincariamo subito incazzatissimi, quasi tutti quelli che avevano condiviso gli spazi con De Laurentiis hanno cominciato a sostenere che aveva dei sintomi molto evidenti, che lo sapevano. Cioè, quindi non solo il mal di pancia, per intenderci. Poi vi dico anche qual è la versione, però... diciamo, che viene da Sponda De Laurentiis, così diamo un quadro completo. Vai, Franco. A sentire il Napoli, a sentire il Napoli la cosa viene molto ridimensionata, perché il ragionamento che fa il Napoli è: ma scusate, un uomo di 71 anni che era Capri la mattina, prende un'auto, prende una barca, prende un'altra auto, prende un aereo, prende un'altra auto, se stesse malissimo probabilmente tutta l'altra fila se la risparmierebbe. Esatto, quindi Napoli sostiene, e va ovviamente registrata anche questa versione, che De Laurentiis stesse tutto sommato bene fino all'arrivo all'assemblea, poi ha avuto effettivamente questi disturbi e questi fastidi, e solo in serata, una volta saputo l'esito del tampone, complice la preoccupazione, dicono a Napoli, avrebbe avuto una sorta di crollo, per cui a quel punto si è sentito la febbre, e la febbre l'aveva veramente, ha cominciato a star poco bene, fino a pensare di rivolgersi, di andare in ospedale, anche perché ricordiamo che De Laurentiis, che è parente di, secondo me, in maniera indegna, viene insultato in queste ore sui social network, come succede Ma lasciamo stare i social network, che chiusa la parentesi, ecco, che lasciano il tempo che trovano. Vai, Pier. Mozione d'ordine, innanzitutto facciamo un in bocca al lupo a De Laurentiis, che partiamo da qui. Tutte le persone, no, lo dico perché poi questo è un momento, è una fase, una situazione nella quale conviviamo delle volte con dei sensi di colpa. È chiaro che ci sono delle attenzioni sanitarie, e io sono assolutamente dalla parte di quelli che dicono che bisogna stare in campana, mettersi la mascherina, cioè io sono proprio in quell'ala lì, che spero sia di stragrande maggioranza, e sono sicuro che sia della stragrande maggioranza degli italiani, perché purtroppo col Covid non si scherza. E detto questo, però, insomma, la prima cosa è l'in bocca al lupo. Mozione d'ordine, penso siamo tutti d'accordo, andiamo avanti col racconto, Franco. Assolutamente, stavo per dire la stessa cosa, cioè parliamo di un uomo di 71 anni che ha avuto già dei guai di salute nell'ultimo anno, e che comunque non è che non si controllasse, aveva fatto un tampone mercoledì, probabilmente ne aveva fatto un altro lunedì o martedì, a seconda delle versioni. È vero che è uscito senza mascherina, qua voler essere ultra garantisti, ricordiamo anche però che a Milano all'aperto la mascherina non è obbligatoria, insomma, se poi sai che vai in mezzo a un gruppo di persone, in questo caso giornalisti, parliamo di ciò che è accaduto fuori, dove il distanziamento certamente non viene garantito, magari un po' più di attenzione, però noi non stiamo a fare il processo, esatto, e il VAR a ogni istante. Io voglio porre questo tema, e cioè il tema comunque complessivamente di una brutta figura complessiva, oltre al fatto che ci sono delle persone che adesso sono obbligate a fermarsi, qualcuno a stare in quarantena, qualcun altro a fare i tamponi, ci sono liberi professionisti che magari si dovranno fermare, ci sono dirigenti che, poi vi daremo l'elenco, insomma, sono alle prese in queste ore con le buone pratiche di tutti i protocolli. Detto questo, succede che dentro l'assemblea più importante della Lega, con i presidenti dei 20 club di Serie A, ci va uno che alla fine risulta infettato, che non stava benissimo, le due versioni le abbiamo raccontate. Nel momento in cui si chiede di riaprire gli stadi, di allentare i protocolli, c'è un cortocircuito in tutto questo, no Franco? Io penso sia stato un grosso boomerang, perché dopo mesi in cui la Lega di Serie A ha riunito la propria assemblea, il proprio consiglio da remoto, come abbiamo imparato un po' a fare tutti noi nei nostri mestieri, con i computer, con gli auricolari e con le applicazioni per i meeting, la Lega voleva dare un segnale di graduale ritorno alla normalità. Quindi nel giorno in cui il presidente D'Alpino, in linea peraltro con Gravina, dice bisogna tornare per gli stadi, sennò le squadre di pallone vanno a gambe all'aria da un punto di vista economico, riunire tutti i presidenti in un luogo fisico con una conferenza stampa vecchia maniera, quindi diciamo pre-Covid, i giornalisti in sala, poteva essere un segnale di ritorno alla normalità. Visti gli esiti, direi che il segnale non solo non c'è stato, ma che per un investimento che è stato fatto, anziché una rendita, si è portato a casa un grande danno. Anche se mi confermi che lì dentro, diciamo, a livello ufficiale tutto ha funzionato, anche quello che tu hai evocato, la conferenza stampa, quella istituzionale, anche dentro la sala, il distanziamento, insomma, tutte quelle misure lì. Allora, io devo dire che, mancando di pazienza, sono arrivato io alle 2, mi avevano detto vieni che alle 2 c'è la conferenza, poi non c'era e me ne sono andato borbottando. per cui non di cosa sia successo esattamente, però sentendo i colleghi mi hanno detto che la conferenza è stata fatta molto bene, nel senso che c'era la distanza, c'erano le mascherine, è stata fatta con tutti i crismi assolutamente. La parte, diciamo, sicuramente meno controllata è stata quella prima e quella dopo, cioè il momento delle entrate e delle uscite. E poi parlando appunto con chi era all'assemblea, quindi con dirigenti sportivi e presidenti, si sono creati gli inevitabili capannelli, no? Tornando anche all'argomento poi centrale della all'argomento centrale dell'assemblea, quindi c'erano i favorevoli all'ingresso dei fondi che confabulavano, lo stesso facevano i contrari guidati dallo Tito, e poi c'era, per cui è normale, no? Come il Parlamento. No, ma cioè, voglio dire, adesso stavo parlando con mia mamma qualche minuto fa, cioè, che penso di tutte le famiglie italiane in queste ore si parla del ritorno alla normalità, alla scuola, cioè è chiaro che se dovesse esserci la stessa forza del virus, la stessa capacità di propagazione e le stesse misure di sicurezza, di prevenzione, di quarantena della primavera, fra tre settimane siamo tutti in preallerta a casa, perché per il classico meccanismo dei gradi di separazione tutti incontrano tutti, cioè, noi non dimentichiamoci che abbiamo passato un periodo di lockdown totale, quindi poi in questo però ce lo devono dire gli scienziati, bisogna riuscire a trovare al netto di tutte le precauzioni che non ci stancheremo mai di ricordare e di sponsorizzare, poi anche proprio gli strumenti per... Sì, però io credo che la base, Pier, sia una sorta di patto fra tutti, cioè se io questa mattina ho misurato la febbre mia figlia e certo, l'avrei tenuta a casa se le colava al naso prima di rimandarla al primo giorno di scuola al liceo, insomma, si presume che veramente ognuno sia legato alla responsabilità dell'altro. Il problema sono gli asintomatici, questa è la verità, nel senso che il problema sono quelli che se uno ha un dubbio sta a casa, se uno sa che qualcuno che può aver frequentato negi ultimi giorni non sta bene, sta a casa, certo. È il conto che facciamo un po' tutti, no Franco, in queste ore e questi giorni. Guarda, io penso che nel mondo del calcio, che è ultra controllato, vive nella bolla, ha cominciato a sperimentare i tamponi e i sierologici con grande anticipo rispetto alla popolazione generale, ci sia un po' una sorta di presunzione di invulnerabilità. Cioè io penso che il fatto di appunto vivere sempre così controllati, sempre con spazi dedicati, con attrezzatura sanificata, come si dice con questo termine bruttissimo, abbia portato un po' al mondo del calcio a diciamo, sviluppare una sorta di convinzione di superpotere, che poi in realtà nei fatti non esiste, perché poi i calciatori li mandi in vacanza due settimane, fanno un po' i pezzi, tornano tutti positivi. Esatto. Io penso che questa convinzione di essere in qualche modo immuni, perché appunto inseriti in questa bolla del gruppo campo dell'allenamento, dei voli privati o dei voli charter, dei pullman giganteschi con sopra 15 persone, abbia portato un po' ad allentare i controlli anche i dirigenti e i presidenti. Cioè c'era una sicumera che nella popolazione generale non si vede in questo momento, però vorrei anche dire una cosa brevissimamente, che così come secondo me non è legittimo chiedere ai politici di essere migliori del popolo che amministrano, allo stesso tempo il calcio, diciamo, ha un po' seguito l'onda del paese, cioè durante il periodo di lockdown e post lockdown, quando tutti noi eravamo ultra attenti, super attenti, anche il calcio lo era. Dopo un'estate in cui la partita calcio Balilla e poi scambiamoci di posto, tocchiamo le stesse manopole, la resta al frigorifero dei Calippo, la resta in coda per il gioco all'Aquafan, l'ho citato casualmente l'Aquafan, poi magari era chiuso, comunque al parco acquatico, si è ripreso sicuramente con meno attenzione. Stupisce che dei professionisti che hanno a che fare appunto con i calciatori, che sono poi molto esposti e che nel caso fossero positivi rischiano di compromettere le performance della squadra, abbiano un po' perso, cioè si siano adeguati all'andazzo generale. Sì, guarda, a me sorprende in generale, e in questo discorso Pier lo facevamo anche parlando delle positività dei calciatori di ritorno dalle vacanze, quando abbiamo puntualizzato non è che si dimostra che il calcio è pericoloso, il calcio anzi ha dimostrato lungo i due mesi e mezzo della ripresa di essere sicurissimo, giocato con le condizioni di controllo in cui è stato giocato. Appena si è usciti da lì si è dimostrato invece che il virus è entrato. A largo discorso De Laurentiis di ieri, a me sorprende la leggerezza con cui non si capisce la posta in gioco in generale. Cioè, noi abbiamo parlato per mesi di che cosa significa poter tenere in piedi quell'industria. Adesso usciamo dal discorso che abbiamo voglia di tornare a vedere il pallone fra 10 giorni, il campionato di Serie A, e che i diretti protagonisti, o in vacanza o per quello che è successo ieri, diciamo con comportamenti, vogliamoli quantomeno di leggerezza, mettano a rischio tutto il sistema, io questa cosa faccio veramente fatica. Nelle ore in cui chiediamo a milioni di ragazzi, che tecnicamente hanno meno la testa sulle spalle, di essere doppiamente attenti, perché da loro dipenderanno tante scelte dei prossimi giorni. Sono d'accordo, però dico anche che si può, e lo dimostrano tantissime esperienze dei medici, si può diventare positivi senza aver avuto chissà quali comportamenti. Cioè, non è che c'è un comportamento tra virgolette spericolato o peccaminoso per forza per tutti quelli che diventano positivi. Poi dal punto di vista dell'immagine è chiaro che ieri doveva essere il giorno, è stato un giorno storico per i fondi, secondo me è stata una grande giornata per il calcio italiano, mi auguro e auguro al calcio italiano che fra qualche anno si dica che questo 9 settembre è stata una grande giornata dal punto di vista della governance e delle risorse. È chiaro che adesso c'è una situazione, è giusto parlarne perché è una notizia del giorno e perché sicuramente dal punto di vista dell'immagine è stato un danno. Beh, il calcio in realtà durante il periodo del lockdown ha tenuto benissimo, perché è stata una sorta di mini lockdown, di contesto assolutamente protetto, con tantissimi test a disposizione, con tutti i controlli sanitari in tempo reale e con i giocatori sottoposti a una sorta di ritiro soft. Sì, la bolla, quindi con un controllo, una specie di bolla. La famosa bolla che poi chiaramente quando poi invece l'estate si è liberi di andare in vacanza non c'è stata. Però dico anche una cosa, bisogna pure mettersi d'accordo, nel senso che se poi abbiamo il governo, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di riaprire, cioè io non avrei riaperto le discoteche, io così. Sì, ma qui però il discorso, Pier, c'entra poco con le discoteche. Se ne apri non ti puoi presentare, puoi prendere quei ragazzi che ci vanno. No, chiaro. Qui stiamo raccontando però una cosa diversa che è accaduta ieri, di cui abbiamo dato le varie versioni, correttamente abbiamo dato anche la versione che esce dall'entourage vicino De Laurentiis, al quale facciamo tutti gli auguri, perché poi questo supera ogni cosa. Però insomma c'è la sensazione che ci sia stata un po' di leggerezza e usiamo questa etichetta, ognuno di voi poi la declini come vuole. Grazie Franco. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, grazie a Franco Vanni. Allora, 800 24 0024, adesso cambiamo discorso, c'è Gil De Cagno. È arrivata anche la richiesta da parte della Lega di A per applicare nel campionato 2021 l'idea delle 5 sostituzioni. Ah. Quindi anche nel nostro campionato di Serie A ci sarà quest'anno la possibilità di effettuare 5 sostituzioni. Abbiamo avuto garanzia da parte del governo italiano, quindi dal Premier, che ci sarà massima attenzione sulla riapertura. Sappiamo anche che bisogna dare priorità assoluta ad altri beni primari del nostro paese, in questo momento alla scuola. È la ripartenza, no? L'Italia riparte, giustamente, riparte anche il calcio. Ragazzi, dobbiamo imparare a convivere in qualche modo con questa situazione. Deve essere il nostro obiettivo, ma non solo quello di riportare i tifosi, ma di riportare la gioia nel calcio, ma senza mettere pressioni, senza fissare termini. Ecco, perché poi, carissimo Pier, nell'imparare a convivere, che riguarda anche il mondo del calcio nei prossimi mesi, ci sono tante misure che vengono messe in atto, anche io la trovo molto intelligente. Adesso giro poi il quesito a Gigi De Cagno, la storia di continuare a fare le 5 sostituzioni, però mi raccomando, si va, si gira con una mascherina addosso, se uno ha un dubbio resta a casa, non si muove, non va al lavoro, non va ad allenarsi, vale, non va allo stadio il giorno in cui riapriranno, seppure a capienza limitata, tanto non muore se per 2 settimane non presiede a qualcosa, compresa una riunione per quanto importante di Lega. Gigi De Cagno, ciao. Bentrovati. Ciao, a me piace molto questa cosa che in Italia si va avanti con i 5 cambi, anche se ho visto che c'è chi, ad esempio la Premier League, è tornato a 3. Io credo che l'Italia abbia fatto bene a chiedere, bene è stato concedere questa soluzione dei cinque cambi, per tutte le ragioni di cui abbiamo anche parlato nella vostra trasmissione in altre circostanze. È un momento particolare dove si deve giocare di più, allenarsi di meno, e già questo è un aspetto importante. anche il periodo appena trascorso di ritiro è stato rispetto al passato molto, molto limitato, anche questo a scapito dell'allenamento e della preparazione dei calciatori, che per ognuno di loro è un cambio e quindi si necessita anche il fisico di adattamenti particolari. Allora la possibilità da parte dell'allenatore di gestire nella partita e nelle partite 5 cambi significa anche dare la possibilità di evitare infortuni o il più possibile, insomma, e comunque di avere squadre anche sempre un po' più logiche, più fresche, e tanti problemi in meno. Poi bisogna anche imparare a usarli, abbiamo scoperto tra giugno e luglio che insomma c'è chi si è adattato più in fretta, chi meno. Secondo voi, provando a prendere buona come eredità l'esperienza che abbiamo fatto dopo il lockdown in quella volata che ha portato poi fino alla finale di Champions League di Lisbona, provando a portarla nei prossimi mesi che saranno quasi allo stesso modo difficili da gestire, che cos'è che vi aspettate? Cos'è che possono aver imparato le squadre? Cosa invece secondo voi le troverà impreparate? Pier? Ma allora io non sono invece un grande fan dei cinque cambi. Non ti piace? No, mi fido del mister e in generale poi vale sempre il principio della prevenzione degli infortuni, un po' il discorso che facevamo l'altro giorno su Zaniolo, cioè se questa cosa qui c'è da parte dei preparatori atletici, dei medici e degli allenatori la sensazione che i cinque cambi possono ridurre il rischio di infortunio, allora cambierà subito. Cambierà. Però dico anche che qui la situazione è molto diversa rispetto a quella del calcio post lockdown. Prima di tutto perché si torna a giocare in un periodo dell'anno non così caldo, ci sarà anche questo aspetto fondamentale. Noi abbiamo giocato il campionato fino al 2 agosto, quindi in luglio, che è il mese più caldo dell'anno, si giocava ed era un po' diverso, e il calendario della prossima stagione sarà un calendario sicuramente intenso, più intenso di un anno normale, ma non è un calendario così clamorosamente diverso dal però, solito. Ad esempio per paradosso, ragazzi, dopo il lockdown i giocatori si sono allenati 5-6 settimane, qui c'è chi inizierà la stagione giocato in nazionale senza aver fatto nemmeno un allenamento, ma diciamo, ecco. La vera anomalia è che è mancato il riposo, quindi questo, ti ripeto, io sulla questione dei cinque cambi alzo le mani, non mi fa impazzire perché non ti piace, sì. Mi sembra una richiesta che mentre a giugno-luglio era assolutamente emergenziale, adesso soprattutto con altri campionati che tornano alla formula più classica. Insomma, ma ce n'è uno in realtà, la Premier League, perché ho visto che nei top gli altri più o meno sono tutti allineati sui cinque cambi. Sì, sono tenuti a quindi probabilmente diventiamo maggioranza noi e mi piego alla maggioranza. Al voto della maggioranza. Però sei molto democratico. Il calcio con cinque cambi cambia un po', perché è molto cambia, sì. Anche dal punto di vista delle panchine, della forza delle panchine, rischia secondo me di dilatare ancora di più la distanza tra chi è molto ricco e chi è meno ricco, perché comunque insomma il famoso discorso di Liberani, lo ricorderete, quando ci furono i cinque cambi approvati a giugno, quindi insomma il dibattito è aperto. Cosa cambierà? Sicuramente ci saranno delle implicazioni enormi. Secondo me il tema più importante è il riposo che è completamente mancato soprattutto per i nazionali, per chi ha fatto le coppe. L'altro giorno ho visto un post di Lukaku che stava già alle prese con il Belgio dopo aver fatto l'Europa League, aver finito il 21 partita. Agosto, sì. Quella roba lì non so il mister che ne pensa, insomma su alcuni giocatori penso che possa influire. Sì, è proprio così, infatti Pier, nel parlare di questo aspetto io ho posto l'accento principalmente sulla questione infortuni, recuperi, perché comunque da parte del calciatore c'è l'abitudine e la necessità di recuperare. Ne va della prestazione, oltre al rischio infortunio, ne va della prestazione stessa del calciatore. Per tanti giocano anche con le nazionali, le varie coppe, e quindi c'è sempre meno possibilità di allenarsi. Non ti dico per l'allenatore la necessità anche di riprovare eventualmente soluzioni tattiche diverse necessarie, che naturalmente diventa quasi impossibile, e per questo motivo insomma penso che poi alcuni giocatori che fanno le nazionali saranno stressati. Lukaku ha fatto un esempio bellissimo. Sì, ce ne sono in giro per l'Europa. Poi, ce ne sono. Ma poi Gigi, sì. La verità è che mancano meno di 10 giorni all'inizio del campionato e non si capisce nulla. Cioè non si sa nulla perché c'è questa cosa. Ci sono le poche amichevoli che possono fare le squadre. C'è il mercato che finisce a ottobre ed è quasi completamente paralizzato. Ne abbiamo parlato dal fatto che se non vendi non puoi comprare, nessuno puoi comprare, compra. E quindi insomma ci sono giocatori che sono fuori dal progetto, altri che arriveranno, cioè la verità è che siamo veramente al buio, al buio. Questo è l'esempio, per esempio, che una società come la Juve, una delle più organizzate d'Italia ed Europa, che ancora oggi a pochi giorni dall'inizio del campionato ha ancora dei quesiti irrisolti, almeno per quello che posso leggere io sapere dagli organi di stampa. E tutto quello che hai detto tu è sacrosantemente vero, perché questo destabilizza anche psicologicamente i calciatori, quelli soggetti e oggetto di trasferimento. Grazie Gigi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Alla prossima. 800 24 00 24. Michele da Bari. Buonasera, buon pomeriggio. Vai, Michele. Sì. Allora, io volevo fare una semplice osservazione, appunto a proposito del presidente, anche spersonalizzando, una questione riferita al presidente De Laurentiis. Ma io dico, quando una persona fa un tampone, quindi sottopone un tampone, evidentemente ha dei dubbi su quello che è accaduto nei giorni precedenti. Se questo è poi secondo addirittura, immagino i dubbi siano abbastanza fondati. Allora, siccome io personalmente l'ho fatto il tampone senza averne obbligo, però nella settimana che lo ha preceduto sono rimasto a casa, ho evitato contatti responsabilmente, ma perché, ecco, quello che voglio osservare è esattamente questo, perché poi non si tratta di chi ha 71 anni, 80 anni, 50, 30, cambia poco, è un senso di responsabilità quando poi noi lamentiamo le presenze negli stadi per mancanza appunto di pubblico e quindi mancanza di incassi per mancata presenza di pubblico o crisi o altro, e poi tu che sei uno degli attori, potevi essere anche della Juventus o dell'Inter, non mi importa il colore, non è un fatto di colore, tra l'altro chiamo da Bari il presidente, anche il nostro, quindi alla certo, fine è figlio di Laurenti, non è una questione legata alla persona, però mi sembra a quanto strano e assurdo che una persona... Allora. Michele, hai perfettamente ragione, e la regola è quella: uno ha dubbi, fa un tampone anche autonomamente e finché non arriva all'esito fa tutto tranne che andarsi a mischiare con altre persone, e quindi in ogni caso qui sta l'etichetta di leggerezza. La versione fonte De Laurentiis, la ricordiamo perché è corretto sia così, è che in realtà il presidente De Laurentiis si sottopone ai tamponi almeno un paio di volte alla settimana e lo fa di routine, quindi non necessariamente legato a un sintomo o a un dubbio, quindi questo è quello che è stato spiegato parte Napoli e parte De Laurentiis, che da una settimana, viene anche detto, non aveva più contatti con la squadra dopo essere stato insieme a Castel di Sangro. Vai Pier, poi abbiamo la borsa. No, eviterei la criminalizzazione, ma questo vale per De Laurentiis e vale per chiunque, perché veramente si può essere positivi, ci possono essere dei sintomi e quindi non veramente, però è chiaro che quello che è successo, no, vabbè, se avevi un dubbio e stavi così insomma. No, vabbè, certo, se avevi un dubbio sì, però voglio sperare che non avesse un dubbio, ecco. Se è partito con dei sintomi, allora è completamente diverso, ma insomma io non sono del corpo di De Laurentiis, no. Quindi gli faccio in bocca al lupo. È chiaro che questo vale per chiunque. Infatti noi prendiamo e raccontiamo le due versioni. Ecco, chiunque abbia dei sintomi, mi pare chiaro che prima di tutto per curare se stesso e poi per non amplificare e spostare il problema sugli altri deve starsene a casa. Questo mi pare che faccia parte. Però ecco, io voglio, non ho motivo per dubitare che il presidente stesse bene e che poi nel corso della giornata evidentemente qualcosa deve essere successo. Grazie Pier. A domani. Allora ci fermiamo la borsa, poi andiamo a Misano, perché da oggi cominciamo anche a parlare del meraviglioso weekend di motori che ci aspetta, tutto italiano, tra Misano e Mugello, MotoGP e Formula 1. Peccato manchi solo la Ferrari, per intenderci, che presumibilmente farà da spettatrice anche in questa domenica di gare. Tutti convocati anche su WhatsApp. tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Prendiamoci una pausa dalle questioni Covid. 800 24 00 24, poi però ne riparliamo. Aspetto le vostre chiamate e andiamo sui 204 chilometri che separano il Mugello da Misano in questo weekend tutto italiano di motori, Formula 1, MotoGP. Andiamo in casa del Team Sky. Saluto Andrea Migno. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, com'è correre a pochi chilometri da casa? Sempre un fascino particolare, no? Molto, molto bello. Siamo pronti a questa... a questa doppietta di Misano che fa da sentire bella carica. Mm. A nonna Valterina che cosa hai detto? Che ricordiamo, pochi che non lo sapessero, ride Gianmarco Ferronato dietro il vetro, l'anno scorso ti ha fatto da ombrellina. Eh sì, l'anno scorso ho fatto da ombrellina, è stato un momento particolarmente bello, però quest'anno purtroppo non potrà venire. Si limita a preparare un'ottima situazione. Aspetta Andrea che ti sentiamo male, se riesci a metterti in una posizione migliore perché facciamo fatica a sentire le tue parole. Mi sentite? Vai, riproviamo. Ecco, no, dicevo appunto la nonna quest'anno non ci sarà perché non possono esserci non possono entrare persone extra agli addetti ai lavori, diciamo. Però appunto si limiterà, credo, semplicemente a prepararmi la colazione e a prendersi cura di me in vista delle due settimane di gara. Ma come l'ha presa? Normale. Normalmente, cioè, o così o niente, quindi non è che ho deciso io, diciamo, causa di forza maggiore. Ma ti ha detto ancora, ti dice ancora di fare il bravo ma dare di gas o no? Certo, quello... Ah. È una regola sempre presente. Senti, come ti immagini domenica? In una gara che come sempre è nelle categorie sotto la MotoGP, alle volte si gioca davvero su poche curve, qualche sorpasso, pochi secondi, pochi decimi. Sì, sarà... l'anno scorso mi sono trovato bene. Quest'anno penso di appunto... di poter essere veloce, e l'obiettivo è fare due belle gare. Sono una gara di casa, quindi c'è tutto il potenziale per fare due bei weekend. Mi passi Luca? Va bene, certo. grazie Andrea. C'è Luca Marini, che anche lui corre davanti alla gente di casa in questo weekend, che tra l'altro riporterà anche la gente in Italia dentro gli autodromi e i motodromi. Luca, ciao, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Fa una certa impressione dire che si torna a correre davanti al pubblico. Sì, esatto, alla fine era una cosa normalissima, invece adesso ci sembra qualcosa di speciale, ma sono davvero contento che si possa tornare a questa normalità proprio qui. Speriamo che anche negli altri circuiti si riesca un po' a liberare la situazione, nel caso che migliorino l'aspetto dei contagi, che ci manca al pubblico. Ma cambia qualcosa correre con o senza? Perché poi voi siete lì dentro il casco, piegati sulla moto, insomma viene difficile immaginare che abbiate tempo per guardarvi intorno. Sì, sì, esatto, è proprio così. Diciamo che nel mentre che guidi la moto non è che ti fai molto caso, però che ne so, quando finisce il turno di prove oppure quando finisce proprio la gara, dopo la bandiera a scacchi alzi lo sguardo, guardi un po' intorno, vedi tutto vuoto, ti senti un po' solo. Speriamo che di qua di risentirci un po' tutto col calore della folla, che alla fine è sempre più bello e a noi piloti ci piace tantissimo. Dovrebbe non esserci Jorge Martin fuori gioco perché la fidanzata è risultata positiva al Covid. Sì, ho letto di lui, non sapevo della fidanzata. Mi dispiace per Jorge, perché alla fine ci stavamo giocando, facevamo delle belle battaglie a lottare per le posizioni di contro e davanti per la vittoria, ci siamo divertiti e penso che sia uno dei piloti più forti quest'anno in questa categoria, e quindi è un peccato non averlo qui con noi in queste due gare di Misano, e spero possa ritornare prima possibile. L'anno scorso sei salito sul podio, lo rifirmeresti? Di brutto. Perché no? Alla fine penso che sia l'obiettivo, il mio obiettivo di ogni weekend, cercare di fare bene, ottenere il miglior risultato possibile, e quindi cercherò di partire bene dal venerdì, che è sempre importante. Sì, anche perché potreste regalarci un bel weekend tutto italiano, lo diciamo noi sottovoce, piano piano ci speriamo, ma insomma coltiviamo speranze dalla MotoGP in giù. Ah, certo, anche noi, io per primo tifo per gli italiani, quindi se non posso essere io sul gradino più alto spero sempre che ci sia un altro di noi, perché alla fine penso sia importante per il nostro sport, per l'Italia, e dobbiamo essere fieri di vivere in questo paese, di stare qua, che è un posto fantastico, quindi è una gara di casa per tanti qui, soprattutto i piloti della Moto2, e avremo tutti una motivazione in più per fare bene. Grazie Luca. Grazie a voi. Ciao, grazie a Luca Marini. E dunque da oggi seguiremo con grande attenzione questo weekend di motori tutto italiano tra MotoGP e Formula 1. 800 24 00 24, Sandro da Roma. Sandro. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Vai. Chiaramente è inutile fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. No, io volevo tornare sul caso del presidente, dell'Aurelio. Sorvolando sulla sua leggerezza ed incoscienza, mi auguro semplicemente che abbia scaricato l'app Muni, essendo lui un personaggio che ha un certo seguito. Spero soltanto che lo abbia fatto per dar modo a chi di dovere di contattare le persone con cui lui è stato in contatto. Quelle di ieri sono state contattate tutte, te lo posso. Ma quella era molto più semplice dire farlo, per testimonianza diretta, certo. Erano tutti registrati, sì. Nell'ambito familiare o nell'ambito d'amicizie, anzi, io gradirei che tutti i presidenti, e compresi i giocatori, spingessero a che si possa scaricare quest'app, perché ci metterebbe comunque al riparo da tantissime noie future. Sì, perché piuttosto che scoprirlo con sintomi acclarati sarebbe meglio saperlo prima. Sì, aiuta a tracciare i contatti, certo, tutto, certo, il resto. Adesso questa non è la trasmissione per parlarne, ma ne abbiamo parlato, certo, tantissimo. Però, sì, lo so. Però ecco, questa forse era una cosa da voler chiedere allo staff del presidente. Grazie Sandro, glielo chiederemo. Grazie Sandro. Intanto, allora, prima del traffico vi do anche conto della ricostruzione che viene fatta attraverso l'ANSA ufficialmente dal Napoli, e che risponde anche a alcune delle domande che sono state rivolte anche da noi, anche in questi minuti della trasmissione. Allora, Aurelio De Laurentiis, scrive l'ANSA, non ha mai avuto la febbre ieri nella giornata del viaggio a Milano, altrimenti, per come è attento alla salute e al Covid, non sarebbe mai partito. La febbre, questa è la ricostruzione che arriva dal Napoli, gli è stata misurata 6 volte nel corso della giornata, all'ingresso dell'aeroporto di Capodichino, all'arrivo all'aeroporto di Linate, all'ingresso e all'uscita dell'hotel Hilton di Milano, e poi ancora per il viaggio di ritorno nei due aeroporti, e quindi prima quello di Milano e poi quello di Napoli. In tutte queste 6 occasioni, recita l'ANSA, De Laurentiis non ha mai avuto una temperatura irregolare, altrimenti sarebbe stato bloccato e controllato come prescrivono le norme sul Covid-19. Quindi, secondo il Napoli, questo dato è incontrovertibile. Poi ci sono stati i sintomi, il mal di pancia associato alla mangiata di pesce delle ore precedenti, che si sono manifestati nel corso dell'assemblea di Lega, e poi tutto il resto che vi abbiamo raccontato. Questa è la posizione del Napoli. Allora, ci fermiamo, il traffico, poi torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. E alla fine, sì, non ne può più la Pirokova. Che scambio durissimo. senza fiato Serena Pironkova, che forse anche ha sentito un pizzico di dolore sulla coscia sinistra. Sì, 5-3. Anche io ho visto che si è toccata subito la coscia fasciata, come se forse avesse sentito qualche dolore. Facciamo un salto a New York, US Open. Vincenzo Martucci, ciao. Ciao. Perché abbiamo i nomi dei magnifici otto. Allora, le semifinali maschili, Zverev contro Carreno Busta, Thiem contro Medvedev, e poi quelle femminili, Osaka, Brady e Serena Williams, Azarenka. Quindi Serenona ce l'ha fatta, semifinale numero 40 in carriera dello Slam, anche se è stata una faticata, per chi l'ha vista ieri, insomma, la partita contro la Pironkova, ed è una Serena che insegue questa dolce ossessione del 24esimo Slam, no Vincenzo? Sì, dolce a un certo punto, perché ha perso 4 finali su 4 dal 2017, quando ha vinto incinta già di sua figlia agli Australian Open. Da allora ha perso 4 finali su 4, 2 Wimbledon e 2 US Open consecutivi, in modo anche tragico, da favorita. E però indubbiamente le cose si possono leggere sempre in due modi: il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. Comunque sia, non dimentichiamo che a fine settembre fa 39 anni, quindi non stiamo parlando, sì, di non una è una ragazzina, certo. In più non è una grande atleta, non lo è mai stata, anche se tutti, cioè, è una cosa opinabile anche lì, nel senso che se una con un fisico evidentemente non atletico, non chiaramente atletico, riesce comunque a sostenere quegli sforzi con i problemi polmonari che ha lei e con gli altri problemi che ha avuto dopo la gravidanza, eccetera, e vuol dire che questa ragazza ha delle doti straordinarie, è stata molto potente, e poi c'è questa resilienza di cui parlavi tu, straordinaria. Ieri io ho rilevato come lei, nel momento più importante della partita, all'inizio del secondo set, quando era in evidente difficoltà, soprattutto non riusciva a tenere lo scambio sulla parte sinistra e cedeva troppo campo e non era tanto veloce, a un certo punto ha risposto con la mano sinistra, ma proprio con la mano sinistra, come si sa, lei è destra, ha una mano, lei ha un rovescio, due mani, e questo fatto qui ha dato un segnale alla sua avversaria, a tutto il mondo che poteva guardare in quel momento la partita. Cioè Serena, più di vincere quella partita, avrebbe fatto qualsiasi cosa, e difatti ha cambiato faccia al match. E notavo come, io non adoro le statistiche, ma penso che 44 volte nel match di Slam lei ha vinto dopo aver perso il primo set. Che significa la capacità di stare con la testa dentro la partita e piano piano di succhiare le certezze degli altri. Dell'avversaria, rilevo, correggimi se sbaglio, che una delle quattro finali perse, da quando ha vinto il 23esimo Slam, l'ha persa contro l'Osaka, che a occhio è l'altra donna alfa che rimane, no, nel tabellone. Certamente sì, indubbiamente, tra l'altro la Osaka è anche un fenomeno di business straordinario, perché lei è metà giapponese, quindi c'è questo mercato americano che chiede tanto, c'è il mercato giapponese, e c'è una ragazza molto giovane ancora, e la ragazza appunto che, come ricordavi tu, l'ha superata, lei più inesperta, ha superato la grande Serena Williams nello stadio di New York, grandissimo, il più grande che ci sia, oltre 20.000 spettatori, pieno di tifosi di Serena, che aspettavano solo che Serena entrasse nella storia, eppure la ragazzina ce l'ha fatta. Ecco, quella, sempre che ci arrivi, perché ora c'è un incontro bellissimo, Serena contro Azarenka che ha il dente avvelenato contro Serena, perché addirittura ci ha perso 3 volte agli US Open, e le ultime 2 erano anche la finale, quindi Azarenka a sua volta, anche lei è diventata mamma, anche lei è tornata protagonista e vuole battere Serena fortissimamente per rilanciare la propria carriera. Quindi povera Serena, povera tra virgolette, ovviamente parliamo di una carriera che ha guadagnato centinaia di milioni di dollari, dico centinaia, e è sicuramente sotto una pressione gigantesca, è stritolata dalla pressione, e può soltanto vincere, non c'è bisogno di altre possibilità per lei, però ecco, si è tolta dalla testa il fatto di vincere bene. Sì. L'importante per lei è diventata, insomma, del resto lo ha detto lei stessa, il fatto che io porti il mio nome sulla schiena fa di me l'obiettivo di questa di questo US Open e non solo, un po' la stessa situazione di cui Vincenzo parlavamo domenica qualche ora prima del burnout a proposito di Djokovic, no? E della pressione che aveva per vincere un torneo in cui era non solo strafavorito ma quasi unico presente. Mi dici in 30 secondi chi invece è il maschio alfa dei quattro rimasti tra gli uomini? Sulla carta è Tim, Medvedev che secondo me era il favorito, ha un dolorino fisico, ha un problema fisico. A questo punto è difficile prevedere un vincitore diverso da Tim, che è quello che è andato in finale, già in tre finali Slam, è quello più maturo fra i quattro, è quello che sta dimostrando di trovarsi molto bene su questa superficie molto veloce dei US Open, e quindi insomma il pronostico è per Tim. È tutto per lui. Grazie Vincenzo. Arrivederci. Ciao, ciao, grazie Vincenzo Martucci. Allora, Paolo da Pistoia, Paolo. Sì, ciao a tutti. Io volevo fare una chiosa su De Laurentiis, anche se sta diventando un po', cioè diventerà un tormentone sicuramente. E volevo dire che secondo me il comportamento è stato sconsiderato, sciocco e autolesionista. Pronto? Sì, vai. Ok. Allora, sconsiderato perché mi sembra evidente che non abbia valutato le conseguenze, comunque sia andata, a prescindere da... Io sono medico, vabbè, a prescindere dal fatto che abbia fatto due tamponi a settimana. Non l'abbiamo letta, Ok. Vai. E sciocco perché, voglio dire, è stato molto ingenuo, che, voglio dire, tante volte critichiamo i nostri ragazzi, no? Che sono un po' avventati, ma da una persona matura, insomma, non me lo sarei aspettato. Ma soprattutto autolesionista, perché ha fatto una società sua, perché se Napoli ora se ne va in quarantena, penso che, visto che le tasche, come a tutti, interessano, penso che dovrà metterci mano. No, ma io non credo. Quindi, Paolo, che sia questo il tema, cioè De Laurentiis ha creato un danno a se stesso, e ripetiamo gli auguri di pronta guarigione, e in generale al sistema calcio nei giorni, nelle ore in cui si discute dell'apertura degli stadi. Ieri abbiamo sentito anche il presidente della Federcalcio Gravina fare un passo indietro e dire va bene, aspettiamo prima che apra la scuola, capiamo la portata, che significa rimandare a ottobre o a quando si potrà, un atto che è necessario per tutti, e insomma quello che è successo ieri certamente non aiuta il mondo del calcio. Questo è in un quadro in cui vi abbiamo riportato le versioni, perché in ogni caso non tutti i confini sono ancora stati chiariti di questa vicenda. Abbiamo modo di parlarne anche domani, però io mi fermo qui, ringrazio Lorenzo Nespoli, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ci vediamo domani, enjoy, saluti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.